Componimento 139esimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Quanto più disiose l'ali spando verso di voi, o dolce schiera amica, tanto fortuna con più visco intrica il mio volare e gir mi face errando. Il cor che mal suo grado a torno mando è con voi sempre in quella valle aprica, ove l mar nostro più la terra implica. L'altrier da lui partimmi lagrimando, ida man manca e tenne il camin dritto, i tratto a forza ed è d'amore scorto, egli in Gerusalemme ed io in Egitto. Ma sofferenza è nel dolor conforto, che per lungo uso già fra noi prescritto, il nostro essere insieme è raro e corto. Fine del componimento.